13. GE24, il sole 24 ore. Costa Crociere ammette errore umano, la manovra non autorizzata, e dall'isola del Giglio parla il padre del metro: abbiamo visto, la nave è troppo vicina. Per la Concordia ora il rischio è il mare grosso, lo scafo si muove e si teme per il disastro ambientale. Moody's conserva la tripla A a Parigi, Van Rompuy difende Roma, l'Italia va nella giusta direzione. Adriano Sofri torna libero, scaduti i termini della pena. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. È stata una lunga e sofferta conferenza stampa quella dell'amministratore delegato Costa Crociere, si è appena conclusa a Genova. A due giorni dall'incidente della Concordia, di fatto ha ammesso che c'è stato un errore umano, confermando le responsabilità del comandante. Intanto però l'emergenza in queste ore, anche per le condizioni del mare che rendono difficili le operazioni, è alto, dicevamo, il rischio ambientale. Ma cominciamo dalle parole dei vertici di Costa Crociere. Siamo di fronte ad una tragedia di proporzioni importanti. Ha aperto così la conferenza stampa indetta nella sede della società armatrice genovese l'amministratore delegato e presidente di Costa Crociere Pierluigi Foschi. Facendo il punto sul naufragio della Costa Concordia, Foschi ha ribadito che la prima emergenza a cui far fronte è anzitutto quella di assistere tutte le persone coinvolte nell'incidente, passeggeri e personale di bordo. La seconda emergenza della Costa Crociere riguarda invece la tutela ambientale dell'area dove è avvenuto il naufragio, all'isola del Giglio. Infine, la terza emergenza, quella di rimuovere il relitto. E sulle responsabilità del comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, Foschi ha parlato di errore umano. L'azienda sarà vicino al suo comandante, l'azienda darà tutta l'assistenza legale che sarà necessaria, ma l'azienda ha anche il dovere di riconoscere i fatti e di tutelare gli oltre 24.000 dipendenti di questa azienda. Quindi noi non possiamo negare, purtroppo, un errore umano. Le procedure che sono state adottate non hanno rispettato totalmente le rigide disposizioni, così ha aggiunto Foschi, e infine, rispondendo ai giornalisti a proposito della rotta, ha detto: questa rotta era stata impostata correttamente dalla partenza di Civitavecchia. Il fatto che sia uscita da questo è dovuto soltanto a una manovra non approvata né autorizzata, né che la Costa Crociere era a conoscenza dal comando nave. Adriana Fracchia, Radio 24, il sole 24 ore. E intanto all'isola del Giglio, dicevamo, si teme per il mare grosso. La società Costa Crociere ha fatto sapere poco fa che si sta studiando anche l'ipotesi di rimuovere la nave attraverso palloni d'aria, un'ipotesi che è allo studio tecnico in queste ore. Ma andiamo a sentire cosa sta succedendo al Giglio, dove c'è Raffaella Calandra. Sì Anna, sta succedendo che piano piano la grande nave si sta spostando verso l'abisso e questo complica tutto. Di sicuro al momento questo ha già fatto interrompere le ricerche di chi manca all'appello, i 16 dispersi, 9 centimetri in verticale e 1 in orizzontale. Di tanto la Concordia si è mossa avanzando verso il punto in cui il fondale precipita a 70 metri e quindi ora ancora di più è una corsa contro il tempo qui all'isola del Giglio, una corsa contro il mare divenuto grosso, che ha reso così difficile per i sommozzatori l'accesso anche alla nave prima che queste ricerche si interrompessero, una corsa contro la pioggia che minaccia all'orizzonte. Da qui, da dove ci troviamo noi in questo istante, dalla banchina del porto del Giglio, il profilo della Concordia con la prua e la fumaiola inclinata è ormai parte del paesaggio, qui vicinissima al porto, troppo vicina come pare ormai accertato dall'inchiesta, e come già quella stessa sera del venerdì questo era apparso già anche a Giuseppe Chievoli, che è il padre del maître della Costa Crociere, della Costa Concordia, colui per il quale pare la nave forse si era avvicinata così tanto al Giglio per quello che nel gergo dei marinai si chiama un inchino, cioè per rendergli un omaggio. Ma quella sera stessa già i genitori del maître si erano resi conto che la nave forse era più vicina del solito. Abbiamo incontrato il padre Giuseppe Chievoli poco fa, sentiamo. Mezz'ora alla finestra, ma in un certo momento si vedevano le luci e via, ma non è che si fermavano, fischiavano, niente. E quella sera appunto l'avete vista avvicinarsi la nave? Sì, abbiamo visto qui fuori, un pochino più in terra, ormai era già caduto il guaio, perché le scuole, lo scoglio delle scuole da qui saranno neanche un miglio, saranno 500 metri. Su questa direzione di qua, cosa calì, sì. Vedi quel tratto di mare laggiù. Ma fatemi capire una cosa, cioè voi quando avete visto la nave vi era sembrata già più vicina del solito? È un pochino sì, sai, di notte non è che fai degli accorgimenti al 50%, al 10%, dico, ma a me mi sembra un po' in terra. Dopodiché con vostro figlio vi siete risentiti? Niente, ci siamo più risentiti. E lui stesso però ci ha raccontato, come abbiamo sentito, che quella sera la nave andava lentamente ed infatti dopo l'urto con lo scoglio aveva ridotto da 15 a 6 nodi la velocità, e anche forse questa stessa manovra potrebbe essere stata la causa del ferimento di alcuni passeggeri. Tra pochissimo comunque noi andremo con una imbarcazione dei sommozzatori proprio vicinissimi all'impatto della nave, vicinissimi al relitto, e quindi vi sapremo raccontare un po' più nel dettaglio quello che vedremo appunto sulla vicinanza tra la nave e gli scogli e su quello che è lo scoglio che avrebbe provocato poi l'inabissamento, la grande ferita della nave e quindi il grazie. Allora Raffaella Calandra, naturalmente ce lo racconterai nelle prossime edizioni. Dicevamo, c'è anche un'altra questione aperta a questo punto: il rischio ambientale per l'isola del Giglio è altissimo, ha detto anche il ministro dell'ambiente Corrado Clini, che arriverà nella zona nel pomeriggio. Allora al microfono di Katia Caramelli, Umberto Mazzantini di Legambiente Arcipelago. Bisogna partire immediatamente con l'allibo dei 2300 tonnellate di gasolio che sono nei serbatoi della Concordia, perché c'è in arrivo un fronte di maltempo, a quanto pare, nei prossimi giorni, e bisogna trasferire immediatamente quel gasolio, perché la nave è su un fondale di 20-30 metri, su una scarpata che declina rapidamente a 80 metri, e quindi la nave va messa in sicurezza prima che possa succedere che la nave scivoli. Bisogna tener conto che i 2300 tonnellate di gasolio sono 10 volte di più di quelle che erano nella stiva dell'Arena, che è il cargo affondato sulla barriera corallina a Nuova Zelanda, che ha provocato un disastro ambientale. Rischiamo un disastro ambientale che è anche turistico e quindi anche economico. Voltiamo pagina, naturalmente torneremo, come vi dicevamo, a parlarne nel corso della giornata. E ripartiamo invece da un'altra notizia appena arrivata in redazione: Adriano Sofri è libero, ha finito di scontare la sua pena per l'ex leader di Lotta Continua condannato a 22 anni per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi. L'ufficio di sorveglianza di Firenze ha firmato il provvedimento. Sofri scontava la pena ai domiciliari per motivi di salute e aveva permessi per uscire. Moody's ha confermato questa mattina il rating AAA alla Francia, una decisione diversa da quella di venerdì di Standard & Poor's. Ancora nessuna comunicazione per quanto riguarda l'Italia. Intanto sui mercati Milano stabile in questo istante, perde lo 0,1%. E andiamo a Palazzo Chigi, dove tra poco Monti incontrerà Alfano, Bersani e Casini, e dove il Presidente del Consiglio ha incontrato invece questa mattina il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy. Ci racconta tutto Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, un incontro quello del Premier con i leader della maggioranza che lo sostiene in Parlamento, convocato per fare il punto alla vigilia della cosiddetta fase 2 dell'esecutivo, fase dedicata alla crescita e che passa fondamentalmente per due interventi, liberalizzazioni e mercato del lavoro. Un obiettivo non semplice per il Presidente del Consiglio, viste le perplessità del Popolo della Libertà sulle prime e del Partito Democratico sul secondo. Di quanto fatto finora dall'esecutivo e di quanto andrà a fare nelle prossime settimane, Monti ne ha parlato questa mattina a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy. Vorrei dare atto a Monti del lavoro straordinario che sta facendo, ha detto Van Rompuy, che ha annunciato tra l'altro che il nuovo patto europeo, il cosiddetto Fiscal Compact, sarà firmato a marzo e reso operativo a luglio. Di questo ha parlato lo stesso Monti in conferenza stampa, in riferimento anche al declassamento di mezza Europa arrivato da Standard & Poor's. Ascoltiamo allora Monti. Ci siamo quindi concentrati con il presidente Van Rompuy su che cosa la governance dell'Eurozona e in genere dell'Unione Europea può fare, oltre al molto già fatto recentemente, per migliorare questa situazione. Ho manifestato con chiarezza al Presidente Van Rompuy quali sono le esigenze dell'Italia, sia per quanto riguarda il trattato, sia per quanto riguarda la governance dell'Eurozona. Quanto alle liberalizzazioni, Monti ha confermato che saranno approvate in settimana e infine più che probabile rinvio del vertice Monti-Merkel-Sarkozy in programma a Roma per questo venerdì. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. A dicembre intanto il carrello della spesa, i prodotti acquistati con più frequenza, dal cibo ai carburanti, ha registrato un aumento annuo del 4,3%. Il tasso di inflazione medio annuo per il 2011 è stato pari al 2,8%. E c'è anche un altro dato, sempre più aziende fallite o estinte, la crisi economica spiega il forte incremento, dice il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, secondo cui le società in situazione di fallimento sono il più 61% e quelle estinte il più 52%. Nuova maxi operazione contro l'evasione fiscale è toccato questa volta oggi a Rimini e allora sentiamo cosa è emerso dal collega del Sole 24 Ore Stefano Elli. Guarda, è emerso che c'è stata un'operazione di polizia piuttosto grossa, 150 sono stati gli uomini coinvolti, 25 i mandati, le ordinanze di custodia cautelare eseguite, di cui 16 in carcere. Tra gli indagati c'è questo imprenditore sammarinese che si chiama Marco Bianchini, che è titolare sia della Carnac, un'azienda molto attiva, un'azienda che produce elementi di cartoleria, che ha un'attività intensissima sotto il profilo delle commesse con l'amministrazione pubblica italiana, è titolare anche della Fingestus. I reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica sono numerosi e variegati, si va dalla intestazione fittizia di beni, allo sfruttamento della prostituzione, alla ricettazione e alla corruzione. Sono stati anche coinvolti nelle indagini alcuni camorristi appartenenti a, in particolare, la famiglia Gallo Cavalieri di Torre Annunziata. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie, per noi è il momento della nostra rubrica. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Meno di 19.000 euro lordi l'anno è quanto dichiarano di guadagnare in media i falegnami. Ma guadagna molto, molto di meno, almeno stando a quello che dichiara, il falegname che ha incontrato Matteo, un nostro ascoltatore, che ci ha segnalato questo caso. A una casa in montagna abbiamo deciso di installare una porta per proteggerla dal freddo. Vengono eseguiti i lavori dopo accordo col falegname, il tutto avviene a metà novembre. Propongo al falegname il pagamento mediante bonifico. Il 4 gennaio ricevo via mail una scansione della ricevuta. Questa ricevuta presenta numero progressivo 3 dall'inizio dell'anno e data di emissione 10 novembre. Al che resto un pochino di sasso, perché mi sono detto, significa che questa persona da inizio anno al 10 gennaio praticamente non ha emesso fatture. Mi sono chiesto o questa persona effettivamente fa la fame, stiamo parlando di una zona altamente turistica, oppure questa persona non dichiara al fisco quello che effettivamente guadagna. Stiamo parlando dell'Alta Val Camonica e quindi una zona in cui sicuramente mercato c'è. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un'altra notizia degli ultimi minuti. Il sindaco di Palermo, Diego Cammarata, del PDL, ha annunciato le sue dimissioni nel corso di una conferenza stampa. Cammarata era stato rieletto sindaco nel 2007. Il suo mandato sarebbe scaduto la primavera prossima. Da tempo circolavano indiscrezioni circa la decisione di dimettersi in anticipo. Le 13:16 minuti, le notizie di oggi di GR24. Costa Crociere ammette errore umano, la manovra non autorizzata. E dall'isola del Giglio parla il padre del Maître. Abbiamo visto la nave troppo vicina. La Concordia si inclina al rischio affondamento, interrotte poco fa le ricerche. Si teme per il disastro ambientale. Per l'economia Moody's conserva la tripla A, Parigi Van Rompuy difende Roma, l'Italia va nella giusta direzione. Adriano Sofri torna libero, scaduti i termini della pena. Ma come promesso riprendiamo prima delle altre notizie con una parentesi calcistica, perché è il dopo derby a Milano e allora io saluto Carlo Genta. Ciao Anna, buongiorno a tutti. Sì, è lunedì dell'Inter e degli interisti questo, un successo che ha forse cambiato la faccia della stagione dell'Inter, che adesso è a 6 punti dalla Juventus capoclassifica, a 5 dal Milan ieri sera sconfitto grazie a questo gol di Diego Milito. Oggi si torna come da pronostico a parlare di mercato, di Tevez e del suo possibile arrivo in nerazzurro. Ha parlato anche Ranieri questa mattina dicendo aspettiamo perché adesso la squadra ha i suoi equilibri. Nella notte invece intercettato un felicissimo Massimo Moratti che dell'Inter, della partita dei suoi, ha parlato così. Certamente un risultato che dà premio agli sforzi che sono stati fatti, al lavoro di Ranieri che è stato bravissimo a questo punto, sinceramente ha risollevato la squadra in termini molto buoni, perché per questo era un impegno più importante, diciamo, come derby, che ha mille significati. Per il più con la squadra prima in classifica, e mi sembra che la squadra aveva reagito veramente molto bene. È fantastico il carattere, come sono stati in campo, cioè sempre molto corti, sempre stando molto attenti alla parte proprio tattica. Nell'insieme tutta la squadra mi è piaciuta, e grande merito a questi ragazzi che hanno un carattere meraviglioso. Così dunque Massimo Moratti, torniamo solo per dire che la giornata, la 18ª, non è ancora finita, perché questa sera c'è il posticipo dei posticipi, cioè Napoli-Bologna ore 20:45. Anna. E grazie a Carlo Genta, vi ricordo poi alle 14 a Tempo di Sport per parlarne ancora. Nel frattempo però restiamo a Milano, perché a Milano oggi è stato anche un altro debutto, quella della cosiddetta Area C, che cambia la rotta nella lotta allo smog a Milano. Noi siamo andati a vedere come è andato il debutto con Maria Luisa Pezzali. 40% di accessi in meno in centro. È il primo effetto sul traffico milanese di Area C, la congestion charge prima in Italia, entrata in vigore oggi tra consensi e polemiche. Obbliga quasi tutti gli automobilisti a pagare 5 euro per entrare in centro. Il numero degli ingressi è aumentato del 10% prima delle 7:30, orario d'inizio del pedaggio, dimezzandosi invece nella prima mezz'ora di telecamere accese. Siamo solamente al primo giorno, premette l'assessore alla mobilità Pierfrancesco Maran, che si dice comunque soddisfatto. Ma non tutti i milanesi sono d'accordo. Sarebbe meglio alzare la quota per gli esterni e lasciare gratuito gli interni. Devo venire via alle 6:30 di casa per poter parcheggiare prima delle 7:30. Io uso tutti i giorni la bicicletta, sì. Stamattina era uguale, per cui vediamo. Adesso sono uscita di casa, è una colonna unica di macchine. Quindi liberano la zona C, ma congestionano poi tutto il resto della città. Ho 4 figli, non c'è un autobus di fianco alla scuola, è assurdo. Quindi mi va benissimo, però organizzatevi. Il nuovo pedaggio, definito dal sindaco Pisapia il protocollo di Chioto milanese, sarà attivo in via sperimentale per 18 mesi, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30. Per regolarizzare questi primi 2 mesi di accessi ci sarà tempo fino al 17 marzo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sciopero di 24 ore dei ferrovieri per protestare contro il decreto liberalizzazione allo studio del governo Monti è stato proclamato poco fa. Il sindacato dell'Orsa ha annunciato uno stop dei convogli dalle 21 del 26 gennaio alla stessa ora del 27. Sul piede di guerra anche i gestori dei benzinai, le associazioni dei gestori e dei distributori, sempre un attimo fa, hanno deciso invece 7 giorni di chiusura degli impianti. Date e modalità, dicono, devono essere ancora decise. A Roma in piazza sono invece ancora i tassisti in attesa domani dell'incontro con il governo. Allora andiamo da Andrea Viali. Sì, è così dunque, anche i tassisti proseguono con la loro mobilitazione contro le liberalizzazioni del settore che il governo si appresta a presentare. Questa mattina i sindacati minori della categoria hanno organizzato un presidio a Roma al Circo Massimo, si concluderà tra circa un'ora, vi stanno prendendo parte alcune centinaia, 300, forse 400 tassisti, sono presenti anche delegazioni arrivate da altre città. Non ci sono stati oggi momenti di tensione né blocchi del traffico. All'assemblea doveva partecipare anche il sindacato più rappresentativo, l'Uritaxi, che però, alimentando anche qualche polemica con le altre sigle sindacali, ha deciso di posticipare l'iniziativa a mercoledì, quindi all'indomani dell'incontro previsto con il governo per domani. Nel frattempo, in un'intervista stamattina, proprio il leader dell'Uritaxi, Vittarelli, ha minacciato uno sciopero ad oltranza se il governo non cambierà posizione, governo che sempre oggi darà il via agli incontri con le altre categorie interessate dalle liberalizzazioni. I primi ad essere sentiti saranno notai e avvocati. che verranno ricevuti nel pomeriggio dal Ministro della Giustizia Severino. Per ora dal Circo Massimo è tutto. E grazie anche Andrea Viali. Restiamo a parlare di novità e di cambi di passo contro la crisi. Andiamo però a Budapest, dove il governo magiaro punta sulla trattativa a tutto campo per superare la crisi economica. Viktor Orban in punta di fioretto. Chiusa la fase dello scontro con Europa FMI, l'Ungheria si impegna nella trattativa a tutto campo, che è poi quello che Bruxelles chiede. Protagonista il ministro degli esteri di Budapest, János Martoni, fedelissimo del premier e uomo di esperienza. E allora parla il ministro degli esteri, si rivolge all'FMI per dire che sì, vogliamo un accordo con il fondo e con l'Europa su un aiuto finanziario e siamo pronti a cambiare le leggi controverse. Poi aggiunge: aspettiamo solo proposte concrete. L'Ungheria dovrà probabilmente ritirare le tasse speciali su banche multinazionali, introdurre ulteriori misure di austerità per migliorare i conti pubblici, senza più ricorrere a misure come la nazionalizzazione dei fondi pensione privati. Secondo Martoni, la legge sulla banca centrale può essere discussa, così come quelle che riformano l'autonomia dell'autorità per la protezione dei dati e la modifica dell'età pensionabile dei magistrati. Insomma, tutto si può discutere, il messaggio di Budapest, che respinge le critiche formulate sul carattere autoritario del governo Orban, protagonista di una riscrittura radicale della legge fondamentale grazie alla maggioranza blindata che ha conquistato nell'aprile del 2010. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Una nuova bufera giudiziaria in Lombardia. I militari della Guardia di Finanza hanno arrestato Antonino Brambilla, vicepresidente della provincia di Monza e Brianza, già coinvolto nell'inchiesta Mani Pulite. Sono finite in manette altre tre persone nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento della società Pellicano, per cui c'è un provvedimento cautelare anche nei confronti dell'ex assessore regionale lombardo Massimo Ponzoni. E giudice in camera di consiglio a Palermo invece per l'uccisione del piccolo Di Matteo. Sono ormai da tre ore in camera di consiglio i giudici chiamati a decidere sulla sorte di sei imputati coinvolti nell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo. Tra loro anche il pentito Gaspare Spatuzza, che ha tirato in ballo il capo mafia di Brancaccio Giuseppe Graviano, e altri quattro mafiosi, consentendo di istruire questo processo dopo che già mandanti ed esecutori del delitto erano stati condannati. Sono passati 15 anni da quando il piccolo Di Matteo è stato ammazzato. Era il 1996. Gli ultimi due anni e mezzo della sua vita li aveva passati da prigioniero. Giuseppe venne rapito per convincere il padre Santino, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia, a ritrattare. Un comando di Cosa Nostra lo prelevò nel maneggio dove andava a fare equitazione. Tra loro c'era anche Spatuzza, che con le sue dichiarazioni ha consentito di far luce su aspetti ancora poco chiari di quel rapimento. Ha raccontato che al bambino dissero che lo avrebbero portato dal padre e lui li seguì felice. Venne chiuso in un furgone e consegnato ai suoi carcerieri. Seguirono 779 giorni di prigionia. Poi il piccolo Di Matteo venne strangolato e il suo corpo sciolto nell'acido. Oggi si attende il verdetto per cinque imputati, per i quali è stato chiesto l'ergastolo, e per il pentito Spatuzza, per il quale il PM ha chiesto una condanna a 10 anni di reclusione. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli eremi dell'abbazia di Santa Maria di Pulsano a Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia, Casa Bossi a Novara, la chiesa di Santa Caterina a Lucca sono solo alcuni dei primi 11 interventi annunciati dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano Intesa San Paolo, che verranno realizzati grazie ai luoghi del cuore votati da 500.000 di italiani alla quinta edizione del censimento. Federica Armiraglio, responsabile FAI del progetto Luoghi del Cuore, al microfono di Adriana Fracchia. La grande novità, diciamo, è che riusciamo veramente quest'anno, dopo il grande successo e la grande risposta degli italiani al censimento dell'anno scorso, a intervenire veramente in contemporanea su tanti tanti beni e in tantissime regioni italiane. Ci tenevamo anche ad avere una bella distribuzione geografica, perché chiaramente i luoghi del cuore sono in tutta Italia, quindi ci ha fatto piacere riuscire a identificare interventi appunto un po' in tutto il territorio, con tipologie molto diverse. Lavoriamo su beni artistici, naturalistici, archeologici, chiese, ville, quindi veramente un po' rispecchiamo quel mosaico di cultura e di tessuto artistico diffuso che è l'Italia, e siamo riusciti a trovare tanta collaborazione anche da parte delle istituzioni locali. Quello che vediamo, e che è un po' il messaggio dei luoghi del cuore, il cui primo obiettivo è la sensibilizzazione dei cittadini, la cui risposta appunto è stata così grandiosa con quasi 500.000 di segnalazioni, ma anche delle istituzioni, è che in un momento di crisi così grande è solo davvero unendo le forze che si riesce poi a salvare quello che è di tutti. I Golden Globe nella notte, premiato secondo tutte le previsioni The Artist, con tre premi tra cui quello per la migliore commedia film musicale, premi andati anche a George Clooney e Meryl Streep, tutti i particolari alle 13.45 con America 24 con Mario Platero. Noi invece con GR24 ci fermiamo qui, in regia Roberto Scaltritti, da Anna Migliorati ancora una buona giornata, GR24 con tutti gli aggiornamenti vi aspetta come sempre alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.